Svegliamoci ragazzi, benvenuti la terra. Buonasera. Questi erano i Bordelò. Questi erano i Bordelò. Ora si va avanti a oltranza con questi erano i Bordelò in questo spazio nostro. Buonasera anche agli ascoltatori di internet su www.radio.fm. E questa sera in studio quanti siamo? Tanti, come 44. 10. Ragazzi, in fila per 6 col resto di 2. Poi facciamo una ola. Facciamo ola. Però sarebbe bello perché viene cosa? Viene tutta bellina. Proviamo, dai, su. Non siamo coordinati. Io eviterei questa roba agghiacciante. Notizie importantissime. Tutta la settimana che noi raccogliamo il sunto della nostra vita così complessa, così frenetica. Certo, parla per la tua vita frenetica, perché mi alzo tutti i giorni alle 2. So che sei un nulla facente. Io 3 ore dopo alle 5, ma alle 2 o alle 14. C'ha un po' l'aria del bamboccione. Guardalo. Effettivamente. Allora Sara, che notizie c'hai da darci questa settimana? Ma così, è bello che prima si parla di come organizzare il programma, poi così si fa a cavo. Nessuna. Quindi, allora, che facciamo? Così partite. Ce l'ha schitarrata, PG Ballo. Ballo a piano. Che vergogna. In studio Sara Fontana. La rana miagolante, ci mancava solo questa. Stiamo parlando di una delle 12 specie di rane indiane dal nome impronunciabile scoperte ultimamente. Questa si chiama pucia, che significa gatto domestico nella lingua locale per ovvie ragioni. L'anfibio è lungo 3,5 cm, fa finta di condurre una vita riservata, per questo odia le intercettazioni telefoniche che cerca di criptare nascondendosi negli anfratti rocciosi negli stati indiani del... lo sai pronunciare? Gli stati indiani. Negli stati indiani, sì. Ultimamente occupa buona parte dei quotidiani e delle notizie che circolano su internet, con tanto di foto scabrose in cui possiamo vedere un enorme aumento dello stomaco. Quindi ringraziatela, perché se non fosse stato per la rana miagolante io avrei trovato e narrato molte più cazzate di questa. Ecco, la rana miagolante, chi non desidera avere una rana miagolante? Che bella, guarda come il rosso! Vedi? Oppure c'è anche l'incrocio in condizionatore. C'è anche l'incrocio in mezzo. Ci consigli anche un cd nel frattempo. Sì, c'è anche il gatto gracidante. Mettiamo il gatto gracidante. Mettiamo che è possibile trovarlo in alcuni stagni molto mentre cerco palustri. Di riprendermi da questa cosa, è che non mi aspettavo. I Tolkien. Salutiamo a casa, ciao, io sono quello che muove la mano. Da 5. Come potete notare, Marco questa sera ha la mia maglietta, che sito 71. Io sono quella che si vede bene, che fa pandan con la bandiera dietro del Pisa, perché penso di essere tipo dello stesso colore. Sei tifosa? Sì. Allora, forse, le teste parlanti. Una volta c'era una testa volante e gocciolante, noi invece... È vero, su un mixo. Sì. Allora Gianluca, tutto apposta come DJ, mi sembra Max Wardrobe. Ti ricordi? Andiamo a sentire Perfect World. Perfect. Perfect. Perfect DJ, we need. Very much perfect DJ. Allora, siamo pronti? 1, 2, 3, lancio! What it looks like. teste parlanti, le nostre sono teste vomitanti. Le mie volte sono teste fumanti. E quella di Gianluca è una testa eiaculante. Una testa di capi. Allora, i Talking Heads hanno fatto la storia della musica, vero? Sì, ma io la storia andavo io malissimo. No. Non lo so. Ma che cosa? Talking Heads? Ah, ecco, perciò ha detto teste parlanti. Bravo! Qui ci vuole, quando ci vuole. Bravo! Questo è un programma veramente alternativo, eh? Un programma alternativo francese e basta. Alternativo al suicidio, francese, questo programma francese, sì, alternativo al suicidio. Oppure il programma giusto che usi prima di sparare. Cioè, io voglio fare un appello a tutti i potenziali suicidi. Cioè, prima di uccidere, parlate uccidiate, con me. Ascoltate il nostro programma. Può darsi che uccidiate noi. No, non lo so. Lo stimolo. Ma ci abbiamo altre notizie? Sì, ci abbiamo altre notizie. Io farei partire la sigla al volo. Ma la voleva leggere Kalos. Vuoi leggere te? Una la leggo io. È diventata una. Allora ci alterniamo io e Kalos, come nei TG americani. Però con questa barba, Kalos, scusami, devo dire. È una barba da giornalista. Io mi sarei fatti i capelli come la sorella con quella barba. Non lo so. Avete visto in onda ultimamente? Non c'è più la Costa Magna. La Costa Magna la prendiamo noi. Settimana prossima. Così, al posto mio. Io gli scrivo le notizie, le leggo. Sara fa l'autrice, Costa Magna Kalos. Le legge lei. Sembra un traghetto. Costa Magna Kalos. No, ho perso un pezzo, io non seguivo. Anch'io. Tra ghetto e ghetto c'era una zona libera dove non c'era alcun pregiudizio. Tra pochissimo ci sarà un'intervista, ve la preannuncio. Ora che sento con le cuffie, però è veramente agghiacciante. Agghiacciante. Ah, io non sento più niente. Vogliamo... mandiamo la pubblicità. No, prego, mandiamo la no. sigla. Ce l'avessimo gli studi. In studio Kalos. Vai con la schitarrata. Vai. Vai. La famosa schitarrata. Che ci mette di buon umore. Sì. Repubblica.it, Canada, nasce il parco per naturisti. Come ben sappiamo, il naturismo è quel modo di vivere che vede l'armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità comune con l'intenzione di incoraggiare il rispetto per se stessi. Ci voleva un altro po' di musica, in effetti. Ma no, vai avanti. Metti in loop. Gli altri e l'ambiente. Tutto ciò si può realizzare al parco La Quercia Nuda, nella città di Sharon, Canada. Ma chi se ne frega, a noi piace molto l'Italian style, dove la nudità è tabù mentre le porcate sono all'ordine del giorno. Era finita? No, però la musica me l'hanno messa a morto. Era più bella la scusate, musica. Ma questa della... è la prima edizione di questo TG della Terra dei Cachi. Sì, un'edizione indipendente con notizie interessanti. Sono gli scatti del TG1, cioè quelli del TG1 vi dà gli scatti. Passerotti, no, a me sembrava che il TG1 parlasse proprio di queste cose. Cioè, queste sono quelle che Mizzoli dice: no, questa dai, questa no. No, no, Mizzoli dice: no, questa no, questa no. In realtà sono quelle che dice Minzolini riscritte da me. No, no, queste sono quelle che scatta lui. Sì. Che dice: queste proprio no, dai, dice no, così in basso no, dai. E le prendiamo noi gratis. Sì. Ma buco radiofonico. Abbiamo questo buco di 10 secondi. Non lo so, abbiamo DJ di lento, qualcosa che qualcuno si avvicina. DJ lento, proprio DJ... lento. Così, DJ radio. Va. Va bene, allora io vi faccio ascoltare questo brano. DJ Bra DJ. Che sono in Ronin con. Ce la fai a mettere un brano? Lo devi prima comporre. Ok. Forse. In Ronin con l'Etiope. grande il DJ che ci apre i microfoni. Sfumiamo i cake per ora. Federal funding. E che cosa succede adesso? Chi lo sa? Succede. Io dico qualcosa. Che in linea dovrebbe esserci una nostra amica Lily Denon. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, benvenuta alla terra dei cachi, in mezzo a noi, in questo spazio indefinito, surreale. Allora, Lily Denon è una burlesquer, giusto? Sì, è verissimo. Termine esatto. Allora, per chi magari fosse all'ascolto e non sa che cosa sia il burlesque, dacci un po' così una breve introduzione. Sì, il burlesque è uno striptease, però ironico, nel quale ci si spoglia ma non si mostra proprio tutto, anzi è un gioco al pudore e è un gioco parecchio divertente, intrigante, wow, sempre seduttivo ma soprattutto fine, grazioso, una cosa insomma di cui c'è tanto bisogno in questi tempi. Un po' di gentilezza non guasta mai, invece adesso esatto, tutte queste storie così truci per soldi, sesso per denaro, così un po'. Ecco, niente di simile, niente di tutto c'è ciò. C'è l'arte e il teatro dietro. Che cosa ti ha spinto a intraprendere questa attività? Ma senti, il grande amore che ho per il teatro in tutte le sue forme, la mia grande curiosità, e quindi dal momento che già facevo la regista, l'attrice, la drammaturga, allora ho detto perché non anche questa cosa che del resto è molto connaturata a me come donna e quindi di conseguenza anche a me come attrice, immagino. Quindi insomma abbiamo scoperto una Lily che è un artista a tutto tondo. Vabbè, adesso non esageriamo. Insomma, ha detto scrivi drammaturgie, fai l'attrice, sì, insomma, sì, molto è interessante. Vero, sì. È tutto vero questo. E sì, quanto diciamo c'è di teatrale in una performance? Tutto, direi. Tutto quanto, a parte il corpo che inizialmente è soltanto un corpo umano, però se un artista è brava riesce a diventare un corpo teatrale, un corpo scenico. E com'è la reazione del pubblico? È divertita soprattutto, a volte anche imbarazzata, perché in Italia ancora il gioco del burlesque non lo si conosce così a fondo, però la maggior parte delle volte è divertita, complice, è molto bello questo, è divertente, soprattutto i bambini anche. Quali sono i posti dove ti esibisci di solito? Senti, le esibizioni si fanno nei luoghi più disparati, dai locali ai ristoranti alle esibizioni proprio di piazza, quindi in tutti i posti dove si possa fare teatro, quindi nei teatri, nelle piazze, nei locali, in generale ovunque. Basta ci sia un pubblico e qualcuno che lo fa il burlesque, poi tutto il resto viene dopo. Non so, ci sono delle ragazze qui in studio, pregherei di farti una domanda, perché sennò tutte domande da un uomo secondo me non completano, perché anche la visione femminile reagisce bene questa cosa. Sì, sì, però anche cioè, una donna che assiste a uno spettacolo di burlesque, diciamo, in media ha emozioni diverse forse. Ma non saprei perché... Io non ho mai visto. Ora Lili non si può esibire, Bernardo, perché siamo al telefono. Da quando l'ho sentita. Allora Marco vuole fare una domanda, perché Marco sì, è quello bello, ti dico. Si vede qualcosa o no? Siamo tutti brutti. Si vede qualcosa o no? Sì, si vede qualcosa. Si intravede o si vede? Quella specie di mutanda un po' grande, le culotte francesi, Si rimane con i pasties, che sono i pasties o puntini, che sono i copricapezzoli, quindi qualcosa si vede. Quelli che ti ha regalato l'altra settimana, ti ricordi? Rimanete ecco, nello stile ottocentesco da quando è nato insomma questo burlesque, via. Quando nel è nato il burlesque? No, dico, volete sapere? Nel modo di vestire. Sì, sarebbe. No, abbiamo Wikipedia. Rimanete sempre ma che vergogna. Stile dell'Ottocento, ecco. Questi mutandoni. Allora, dunque, il burlesque, lo diciamo per i nostri ascoltatori, nasce alla fine dell'Ottocento in Gran Bretagna, quindi dove è maggiore la repressione sessuale, esce proprio questa forma di spettacolo particolarissima e sensualissima, quindi è un po' un modo per rimettere nel teatro quella sensualità che nella vita forse gli inglesi in qualche modo rimuovevano, allontanavano da sé, ecco. C'è più libertà oggi secondo te o quando c'è stato questo spunto a fine Ottocento? ma io credo ci sia più libertà adesso nonostante tutto, però è certo anche che adesso c'è anche tanta volgarità in giro e quindi quando uno propone uno spettacolo del genere non sa mai se verrà recepito per quello che è o travisato da chi anche si presta ad accoglierlo. Ma ti è mai capitato di essere travisata, non so, di avere un pubblico davanti che ti ha contestato? Che... No, mai, quello mai. Può capitare invece che qualcuno ti offra una proposta di lavoro e poi si scopre che non è una proposta di lavoro e allora chiudiamo. Vabbè, questo è il piccolo berlusconino che c'è in noi. Che... Non dire cose che poi ci querelano. Ti viene fuori così dall'anima. Senti, Lili, una domanda, ma se una persona come me volesse venire a vedere uno spettacolo, dov'è che ti posso trovare? Dov'è che... Allora, me mi si può trovare chiedendomi l'amicizia su Facebook nella pagina di Lili Denon, però in generale si stanno muovendo adesso alcuni locali, alcuni luoghi dove si inizia a fare seppur timidamente burlesque, quindi se mi volete seguire ho la mia pagina con le mie attività e di far conoscere il burlesque in Toscana soprattutto, però ci sono anche altre artiste che si stanno occupando di questo, io poi tengo dei corsi, questo è molto bello perché le donne partecipano, imparano e scoprono dei lati di sé che prima non conoscevano. Senti, ti volevo chiedere una cosa, quanto è importante, diciamo, il corpo in senso di bellezza standard, diciamo, perché la ballerina di burlesque può anche, diciamo, con la sua ironia, con la sua capacità, la sua sensualità, riuscire a coprire anche un corpo magari non felice, diciamo, dal punto di vista della bellezza. Sì. Che ne pensi di questo? Sì, penso che i canoni non siano sicuramente quelli delle veline o comunque delle modelle. Quindi posso farlo anch'io. No, perché Sara te la volevo mandare un attimino. Molto volentieri. Il burlesque lo può fare chiunque, qualunque donna che si sente in grado di esprimere un tipo particolare di femminilità. No, stavo scherzando, non sarei in grado. Ma no, ma secondo me tutte sono in grado, chiunque è in grado di scoprire dei lati di sé che prima non conosceva e mettersi in gioco, e quello è lo spirito del burlesque alla fine, mettersi in gioco, giocare col pubblico e con se stessi anche, quindi il corpo non c'è bisogno che sia un corpo né palestrato né scolpito, anzi nel burlesque si gradisce forme e anche il corpo non abbronzato, quindi, ah, quindi sono io veramente la pelle deve essere una pelle color latte, dai, siamo tutti perfetti, esatto, per il burlesque. Allora io direi veramente che noi siamo tutti aspiranti burlesque qui, uomini e donne. Benissimo, anche per gli uomini. E Gianluca, non possiamo catalogare queste due macro categorie, no, non possiamo. Esiste anche il burlesque maschile, si chiama boylesque e lo possono fare gli uomini, quindi è molto divertente. Ma già lo sapevamo, perché però noi abbiamo Carlos. Il burlesque il gaylesque, no? Facciamo insieme, ti compro una bella parrucca bionda. Magari sarebbe interessante uno show uomo-donna, eh? Allora, ma le drag queen... Posso farti una domanda? Si può fare, Ma gli spettacoli delle drag queen, tipo Priscilla, queste cose qui, hanno a che fare con qualcosa con il burlesco? No, perché lì è travestitismo e basta, giusto? Io credo proprio di no, cioè penso ci siano degli elementi in comune, come per esempio il boa, le piume di struzzo, la voglia di stupire, però lo spettacolo di burlesque di solito è un po' più sobrio, meno sopra le righe, nonostante che sia abbastanza coreografico anche quello, ecco, direi che sono due spiriti diversi, la drag queen lo fa per spire, la burlesquer lo fa per riscoprire un mondo che non esiste più, ecco. Bene, allora noi ci lanceremo alla scoperta di questo infinito mondo. Scusa, si prendeva bene. Scusa. Salutiamo Lili, la abbracciamo calorosamente. Grazie. La invitiamo a venire a farci uno show qui sulla scrivania di Punto Radio. Sarebbe bellissimo. Via web, facciamo la ripresa. Chissà quanti ascoltatori video metteranno. Perché no? Bene, grazie ancora. Ti dedichiamo questa canzone e invitiamo tutti gli amici all'ascolto. Scusate, a unirsi al tuo gruppo che è Lili Denon su Facebook, giusto? Grazie infinite, sì. Prego. Giustissimo. Un abbraccio a voi. Ciao. Buona serata. Ciao. Revolution rock. got the biggest lies. I got no time to do battle. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is your music mash up the nation. This is your music cause a sensation. Tell your mom, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. It's gonna be alright. Good eye on the beat, living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This is music, mash up the nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Anche allora, allora bravi entriamo, entriamo anche entriamo, se wow, sui Clash con, che cantavano con Revolution, Revolution cantavano ormai la Revolution, ragazzi. Qui siamo al burlesque, un altro di Revolution. Prendiamola a ridere, a che divertirci. Schifo, Berlusconi che fa il burlesque. Mamma mia, questa immagine. Non... La Minetti vestita da suora. Ero da questa rana miagolante. La Minetti pare che si vestisse da suora per i suoi spettacoli hard. Sì, ma perché lo vogliamo per ricordare? Don Silvio. No, così. Don Silvio, non riesco a immaginare la Minetti vestita da suora. Perché cioè, no? Non lo so, mi sembra che l'abito improvvisamente si prenda fuoco. L'abito non fa l'abinetto. No, secondo me cioè, è un classico stereotipo pornografico. La suora, l'infermiera, la polizia. Infatti Sara ha il vestito da infermiera, certo. Il vestito da suora non lo so però. Il vestito da suora non l'ho trovato però. Tutte le donne nel loro armadio per il loro uomo hanno l'abito da infermiera. Ma non era per il mio uomo. In realtà il vestito da infermiera era per fare pubblicità alla fanzine. Perché appunto vorresti è uno stereotipo porno che non te lo sei mai messo? in una sera così, chissà, in un gioco erotico, così vestita da infermiera. Può darsi, però. Al supermercato, siamo andati insieme. Basta andare al supermercato? L'ha messo andare al supermercato. Ah, l'ha messo per andare al supermercato. Ah, vabbè, nei camerini. Infermiera sex. Se vedete un'infermiera sex al supermercato, sapete che è con la parrucca bionda che cammina goffamente, sono io. Perfetto. Svenite subito, che vi soccorrerà con la sua famosissima, boh, qual è la tua tecnica? Rianimazione bocca a bocca, quella è il bocca a bocca, è negato, vabbè. Non lo so, due calci nei denti e uno si sveglia. Ma non lo so, è che quando faccio determinate cose sono molto in imbarazzo, quindi forse la mia tecnica è scappare. Ah, quando ti vesti da infermiera sexy sei in imbarazzo? Quando faccio qualsiasi cosa sono in imbarazzo. Anche infatti adesso sei in imbarazzo? Abbastanza. Un applauso all'imbarazzo. Bravi! È in imbarazzo. Cosa dice Chiara? Dice un provo da coniglietta sexy. Se magari da coniglietta, visto magari che è un animale, forse un po' meno imbarazzante. Coniglietta sexy. Sì. Dipende dalle carote. Dipende da la forma. Stiamo scendendo in una scabrosa dialettica che In una scabrosa analogia con intervieni Gianluca con qualche gioco di parole per ritirare su il morale di questa. Allora, io direi che è arrivato il momento di immolare, dare ancora delle notizie, certo, qui dal nostro TG, primo TG della storia, giusto per rimanere nell'imbarazzo. Giusto per rimanere dagli scarti del TG1. Da il Tirreno in realtà. Quando parte la schitarrata, ma perché? Truffa in chat, donna frega un anziano e si fa pagare. Strano, che succedano queste cose ultimamente. Dopo aver conosciuto una donna rumena in chat, un 67enne è stato abbindolato dalla donna stessa ed ha pagato 11.000 euro per poterla fare entrare in Italia. L'anziano sostiene di averlo fatto per pietà. Strano, anche questo. La chiamano anche così. La donna infatti lamentava mancati pagamenti d'affitto e poveri bambini da crescere. Pietà. Ma siamo proprio sicuri che stiamo parlando di un 67enne, non di un 76enne? Ah, l'allusione è così un po' forzata, però. Però il 29 settembre fa 76 anni. Che c'entra? Infatti scusa, qui c'era scritto 67, poi 67, 76, tutte queste S, ma perché? Giochiamoci all'otto, direi. Va bene. Era l'ultima notizia. Era l'ultima quindi notizia mia. No, ce ne sarebbe un'altra, ma la leggerà il tuo collega Kalos. Indica DJ Brady, poi indica Brady col DJ. Quando si volta, ci mette circa 8 secondi per voltarsi, ci guarda. Anche lo sguardo è come il raggio del sole, no? Arrivare a noi, si vede che è assente fino a che non ci colpisce nell'occhio, che passano altri 2-3 secondi. Sì, sì. Poi fra l'altro di vuoto, di parole veramente. E poi si dice che sia calvo, ma non è vero, perché i suoi capelli si stanno radunando tutti al centro della testa per una manifestazione contro per il centro, per il centro. Cercano un centro di gravità permanente. Oh. No, un centro di gravità con la permanenza, no. Gianluca è in attesa, così ce la possiamo fare. Facciamo ripartire questa canzone, spasmodica attesa della polizia che liberi un po' questo faccio ripartire. Ah, ce l'ho. No, possiamo ascoltare questo bellissimo brano di degli Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, che ci butterà giù di morale. Ciao Paglietta. Thank you. eccoci, domani sotto la sede quindi punto radio avremo Boss 63 con lo striscione. Ma che c'è sta scritto? Il fatto è che dobbiamo dire al nostro direttore che ogni tanto si impalla questa connessione. È vero, si impalla la radio, ci dispiace tantissimo. Lo striscione se lo sarà fatto lui, mi sa. Beh. E quindi è questo il risultato. Ma il caprone delle messe nere, se è quello che penso io. Basta, se è chi pensiamo noi, venga qui. Invece di stare a scrivere caprone, queste cose lo sacrifichiamo sicché, sicché cosa? Abbia il coraggio. Abbia il coraggio di palesarsi. Caprone. Viva il caprone. Sei tu colui che pensiamo che tu sia. Ma alza, approfittiamo di questo vuoto per leggere una notizia. Prima della notizia una grande novità. Una grande novità. Oggi, siccome non ho mai niente da fare, ecco, ho creato anche la pagina Facebook della Terra dei Cachi. Che non è una pagina Facebook della Terra dei Cachi. Yes. Sì. Ah, che non è la stessa cosa. No. Cioè, la il gruppo, del gruppo è quello dove noi ci facciamo fatti nostri, anche se era gruppo, però è, vero, è pubblico. Sì, sì, però pubblico. Ormai è diventato è il privé. Quindi niente, c'è cioè la pagina Facebook, poi il manifesto artistico culturale, sì, di questo paesaggio, il manifesto futurista della nuova umanità. Esattamente, il manifesto futurista della nuova umanità, può darsi, ma sì, vi piace questo slogan? Si cerca come creato. Sì. Vasco Rossi. Ah, è già stato usato? No, allora non lo possiamo usare. Scusate, Fontana, non chi è? Fontana chi è? Nessuno. Fontana è il pittore. No, Fontana no, non è il politico. Lo squarcione. È il futurista, il intendevo. Il politico della Lega è no, Fontana. No, il quello del titolo di Italia Valetele, Lucio Fontana. Ma è il politico della Lega. C'è un cognome nobile. Ma se no anche un cognome nobile, il politico della Lega. La Lega parla a Rutti e Scorreggi. Vabbè, non tutti, diciamo. C'è chi si limita alla gestualità. Comunque stavo dicendo, questa bellissima pagina Facebook la potete trovare cercando la Terra dei Cachi FM. Terra dei Cachi FM su Facebook. Facebook. Se non sapete cos'è Facebook, meglio così. Potete andare su Google. Chiedete al primo passante, tanto lo sa. E niente, c'è una bandiera italiana con scritto la Terra dei Cachi in arancione. Chiaramente i cachi arancioni. Perché la bandiera italiana? Il nostro è uno perché stato, la terra dei cachi, diciamo, indipendente. È la terra dei cachi. Com'è la bandiera della terra dei cachi? Non so. Ma dice verde, bianco e rosso. Un caco enorme nel mezzo. Sfatto. Bianco, rosso e verde. Dei cachi, la stessa cosa. La terra dei cachi, ci sono anche le banane. Gianluca, tutto a posto? Niente, hai cambiato il carbone al piatto? Io faccio la parte di Gianluca perché... Non so. Perché... Facciamo come il test debutant, facciamo il programma pedalando. La schitarrata. Fatti di cronaca.it. Il sito di notizie ne è anche un po' cinico. Caius Veiovis, penso si dica, non lo so. Scusate, Veiovis forse. Mi dico dalla redazione Veiovis. È la prima volta. L'uomo che assomiglia a Satana, arrestato in Massachusetts per tre omicidi. Capisci perché? Questo tale Caius Veiovis, quello lì. Capisci perché non l'ho letto? È difficile da pronunciare. Troppe S. È un idiota, divenuto famoso per aver fatto primo un massacro e poi essersi modificato la faccia a mo' di demone. E come se l'è modificata? Si è fatto dei boboli. Ma poteva qui magari prima 666 sulla fronte. Sì, infatti, anche secondo me... Mi pare di aver dato anche troppo spazio a questa raccapricciante. Ma gli è venuto male. Questi sono gli errori. La vera, sì, la vera notizia in realtà è preregistrata. La faremo sentire dopo. Forse. Raccapricciante. Sì, non pi greco contro pi greco. Non mai vivi. Allora. Ma vogliamo parlare del sito che l'ha pubblicata? Fattidicronaca.it? Direi di no. Quindi vi lascio con uno dei loro meravigliosi sondaggi. Tiratevi le somme da soli. Sondaggio del giorno. Sì, sondaggio del giorno. Sondaggio del giorno. Qual è il delitto questo degli ultimi vero anni che ti ha colpito di più? Cogne, Novi Ligure, Garlasco, Perugia, Saraskazzi, Yara Gambirasio, strage di Erba. A me mi ha colpito la strage di Erba. A me la strage di Erba mi ha colpito. Uno spreco. Uno spreco. Cioè, sa che sei tu ce l'autore. Ce ne rendiamo conto che questa cosa del sondaggio del giorno non l'ho inventata io. Esiste davvero su fattidicronaca.it. E tu come hai risposto? Non ho risposto perché mi sembra, cioè, boh. Comunque fatti, devo dire che tutti questi casi così complessi, a parte pochi, hanno comunque dimostrato che è difficile trovare l'autore di queste nefandezze, anche perché forse chi lo sa. Ma in realtà è perché va di moda il processo lungo e quindi è così. La processione. Oh, che bello quando non c'è una base di sottofondo. No, che bello quando il DJ così sembra assorto nei suoi pesi, è tutto pallido. Infatti, giusto appunto. Alla pelle burlesque, color latte. Diciamo di salutare, tipo. T'ha detto, c'è un disco lì dentro. Che faccio? Parla, di qualcosa. Funziona. Lo accendiamo? Come ti chiami? Come ti chiami? Gianluca. Ciao, bambino. Dove vai a scuola? Cazzi miei. Ah, davvero? L'ha portata la merendina? Sì. Ce l'ha? Dove ce l'ha la merendina? 50 euro la vuoi? Accidenti, che merendina, È buona. Ah sì? Ma 50 euro al giorno d'oggi sono pochi. Ho letto anche una notizia sul giornale di una scuola nel sud Italia, adesso non mi ricordo dove, dove praticamente alcune maestre si rifiutano di andare in classe perché ci sono gli spacciatori. No, invece era tipo una cosa, ha detto veramente l'insegnante che è stata sospesa perché è stata scoperta in bagno a bucarsi, insomma, un'overdose d'eroina. Era indecisa se scriverla, infatti, ma lo faceva ieri prima questa, di entrare in classe. Un insegnante di sostegno. Prima. Addirittura. Aveva bisogno lei di un po' di sostegno. Ma la mia insegnante di sostegno delle medie, una volta venne, non lo so, penso molto probabilmente fatta. Voleva farmi volare dalla finestra. Mi disse: vieni, Sara. Adesso abbiamo capito perché è così deformata a livello mentale. Avere una maestra così ti cambia la vita. No, ma era l'insegnante di sostegno della classe, perché vivevo in una classe di gente, sì. Vivevi in una era classe al tempo prolungato, quindi sì. Di gente allora che si tirava le coltellate. Io invece vivevo in una casta, e quindi adesso bravo, la casta. Ma per un periodo di tempo ci sono stata anch'io. Dove? Nella casta? Sì. Castagna. Ma il Gianluca, tempo ci hai rotto veramente. No, ma io dicevo tutto ciò. Il tempo, tempo per il andare tempo avanti è finito. Il tempo indietro, prolungato è questo, no? Il tempo. Vabbè, io direi che è il tempo dei saluti, perché io devo andare. Io direi che è il tempo delle mele qui, visto che le pere le siete fatte voi, mi sa. Ok, allora ascoltiamo quest'ultimo brano e dopo un altro ultimo brano e poi un altro brano, brano e poi un l'ultimo ultimo, ultimo, brano, ultimo. Ultimissimo ultimo, brano ultimo. Oppure salutiamo ora come volete voi. Un altro, non lo so che no, si fa penultimo ascoltiamo ancora un altro uno, dai va bene, si sente ogni tanto anche la voce di Chiara, poi salutare anche la mamma. La mamma, sentite che voce mamma carina che ha Chiara. Ma perché lei deve parlare, no? Infatti, ma adesso sta facendo un tappeto e ha detto finirà nel 2068. Ha iniziato adesso. Allora ascoltiamoci questo brano. Si può vedere dalla webcam, può vedere che si è può seguire vero in diretta il tappeto per questi prossimi. Ok, chiude i microfoni. Ciao, anni dopo. Rhythm is realtà. Ma tutto ciò esiste ed è bellissimo ed è vero, perché io lo percepisco. Lo percepisco. Allora, siamo arrivati alla fine, vero sì, Sara? Hai sforato sì. Stasera. Bloccato anche. Bloccata la chat, ci dispiace streaming. Tantissimo per dispiace. I nostri amici che ci seguono via internet, infatti sono tutti incazzatissimi. Noi giriamo l'incazzatura al nostro poi venerabile che ogni tanto presidente. Si sposta a blocchi, guarda come siamo brutti. Guarda come è brutto Gianluca, mamma mia. Gianluca ragazzi. Non si vede. È per questo. Si vede soprattutto. Meno male che non si vede, altrimenti. Anche Chiara livello. Non si vede, infatti per questo dicevo per il resto no, si vede solo me allora, è brutto. No, si vede benissimo scusa, anche me io l'illusione. Si vede benissimo anche me purtroppo. Anche Sara si vede sì, benissimo. Vabbè. Che peccato. Niente, quindi siamo che peccato davvero. Tutti di profilo. Siamo qui tutti a... gentilissimi, devo dire stasera. Uno sì, dice "Ah, sono brutto", tutti sì, è vero, cosa. È vero. Cioè di solito uno dice "Guarda, sono brutto", così. No, non è vero. Ricordato. Sei bello. La terra infatti, dei cachi, il programma con i conduttori più brutti della storia italiana. No, allora, conosco i conduttori più brutti di me, sì. Più brutti di Milano. Ce ne sono, ma non in così. Senza dice Caprone delle Messe Nere Bao, ma secondo me sta scrivendo a caso, non è Caprone che sente... delle Messe Nere ha scritto Bao, ma io penso sia un acronimo. Basta andate oltre. Basta io andate off. Direi di salutare, così almeno... No, io non saluto nessuno, vi state tutti un po' così antipatici. No, io vi saluto con saluto Garbo. Solo Lily De Non, che è stata ospite con noi. Ma io... perché ogni tanto non ci salutiamo con i nostri nomi, tipo Chiara Moraglio, eccetera, eccetera? Perché ti chiami Chiara? Non ti chiami no, Sara lei, io non mi posso salutare col mio nome, capisci? Ciao, mi chiamo Chiara sì, professionale. Sì, quanti anni sì, è che fai rap? Professionale, ah, sì, stupendo. No. Vabbè, allora vedremo poi. Saluto sono Chiara Moraglio. Io sono il primo Speakers antiprofessionale della saluto Terra. Chiara Moraglio. Ma come non salutiamo vuoi Chiara Moraglio. Ciao da Chiara Moraglio, io vi saluto. Ciao Chiara Moraglio. L'unica. Sono Sara Fontana, saluto chi mi aspetta ecco, a casa. Potremmo fare anche questo. Sì, io sono ribaltaci. Salvatore Canonico. Canonico? C'è cioè, uno che si chiama Canonico. Secondo me è una spia del Vaticano. Sì, sono una spia del Vaticano. Guarda, ammetto, non sei ammetto, DJ Bradipo. DJ Bradipo vi saluta e buon notte. Buonanotte a tutti, mercoledì prossimo alla stessa ora. La prossima volta da Bernardo comunque Birillo, se siamo un po' in ritardo da insomma, Bernardo Birillo. Bernardo Birillo la prossima volta portate dell'anfetamina per il DJ Bradipo anche così un'iniezione così adrenalina letale ci vuole qui. Adrenalina io gliela sparerei direttamente della tempia una siringa così. Abbiamo accartocciato una notizia abbiamo accartocciato una notizia My Generation parte 2 che la prima parte è già andata. L'abbiamo accartocciata perché era quella festa. Giovani democratici in festa. No, non è mamma vero. Mia, lo dobbiamo dire. Cioè, altrimenti siamo precettati. Allora, presso il parcheggio della mostra del mobilio a Cascina ci saranno tornei di ping pong e biliardini. Ah, ecco, dice bar, strano pub che non sia scritto in maniera antica. Concorso di idee per Cascina, città di gioco. Scusa, sto parlando. lo so. Guarda, chiamo subito la presidenza del partito e ti faccio espellere. Se hai, se hai vocaboli consoli per chiamare il PD, parlano sì. ancora russo. No, devi chiamare la gente del KGB. Dici, eh? Allora, concorso di idee per Cascina, città dei giovani. Se io raderei al suolo una parte della città, così ci farei un campo di calcio. È dei giovani. Vabbè. Marco ci farebbe un autodromo. L'autodromo di Cascina. Gran premio di Cascina. Valentino Rossi alla curva. Grande. Lui c'è. Stands di associazioni, tra i quali ci sarà anche installazioni artistiche, tra le cui famosissime installazioni di Sara Fontana. Ma non è vero. E mostra fotografica di Chiara Moraglio. Fotografica, no, magari. Magari puoi partecipare. Questo, tutto questo ci sarà venerdì 23 settembre e sabato 24 ottobre. No, ancora settembre. Dice che alle piove. 19 aperitivo con DJ set e video mix. Ah, quindi forse sarà Fontana, cena, cioè, question time, rock machine, aperitivo. Va bene. Vabbè. Detto questo, direi rinnoviamo che... l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui alla Terra dei Cachi. Girate a sinistra, c'è il cartello Terra dei Cachi, voi proseguite dritto, poi dovete pagare il biglietto, ovviamente, perché per entrare nella Terra dei Cachi si paga, perché è un monumento artistico di rilevanza mondiale. Ma si paga mondiale. Fisicamente? Sì, insieme al biglietto poi danno anche pomodori. Si paga salata. Fisicamente, sì. Tipo... te Sara verrai frustata. Frustata e brutto. No, preferisci un atto così sessuale? No, un cazzotto nei denti forse. Ah, no, vabbè. Meglio quasi una frustata. Sa di cattolico, non mi piace. Ah no? Ma anche Sadomaso non mi sembrano degli esperti cattolici. Ma Sadomaso, non lo so, se però, non vedo. Tutto è partito dai frati. Che... ma questa preghiamo è un'altra Sadomaso. Puntata. Questa è un'altra puntata che faremo. Non prima che ci giorno. Richiamino. Non so. Allora, Rockabilly Rap questa sera non si vede. Ma arriverà. Arriveranno siate probabilmente speranzosi. Sì. Siate. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buon anno, buona Pasqua. Felice Ferragosto di Nadla. Questo è DJ Bradipo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.